Radio 24 Reportage. Nautica, rotta invertita, i venti di ripresa gonfiano le vele, di Andrea Ferro. Sprofondato negli abissi della crisi, spinto fino al fondo da una somma di pregiudizi che a un certo punto lo Stato ha pure declinato sotto forma di leggi, il comparto della nautica ritorna a galla e guarda all'orizzonte con un buon vento e il sole in faccia. Al Salone Nautico di Genova, terminato il 5 ottobre, l'inversione di tendenza si è materializzata plasticamente, nei numeri, nei sorrisi, nell'ottimismo che sono andati a sovrafforsi fino a coprirla, a quella cappa di sconforto che a partire dal 2009 si è addensata sul settore. Uno scenario ribaltato al punto che un solo salone nautico non basta più. Dal prossimo anno, dopo 55 edizioni, la manifestazione si sdoppia sull'asse Genova-Venezia, altra culla della marineria nazionale. In laguna andrà in scena l'edizione primaverile, dal 21 al 25 aprile. A Genova quella di fine estate, dal 20 al 25 settembre. Ai due appuntamenti va aggiunto quello dedicato alle barche usate, in programma di nuovo a Genova, dal 1 al 10 aprile. Marina Stella è il direttore generale di Ucina, la Confindustria Nautica. Partendo dal salone, traccia la rotta, ritmandola attraverso i numeri. Gli affari ci sono stati in aumento. Questo salone ha dato riprova di accontentare quelle che erano le aspettative di tutti i segmenti a livello trasversale, piccola nautica, componentistica, grandi imbarcazioni. Quindi grande soddisfazione, ritorno della clientela italiana, oltre alla riconferma di una buona componente di operatori stranieri. Dati che abbiamo presentato ci hanno indicato un trend di crescita del fatturato dell'anno nautico 2015 sul 2014 del più 10%, con un'indicazione di un più 15% del comparto dei motori, che anticipa tradizionalmente quello che poi è l'andamento della cantieristica. Il ritorno di anche espositori con imbarcazioni nella fascia dai 12 ai 18 metri, che ora ci confermano anche la ripresa del mercato domestico, ci fa pensare ad inizio intanto di una fase di crescita a doppia cifra, perché questo 10% è importante, perché segna proprio un'inversione di tendenza e soprattutto che si possa ritrovare un mercato domestico, un mercato europeo, che era una componente importante per le nostre aziende. Massimo Perotti è al timone dei cantieri San Lorenzo, tra i marchi leader a livello mondiale per i maxi yacht, un mercato globale sul quale il Made in Italy ha impresso stili, linee, idee, originalità. Un patrimonio, un sapere sui quali ora si impalca la ripresa. Dopo 7 anni di pesante crisi, non dimentichiamoci, nel mercato italiano nel 2008 si sono consumate 3 miliardi e 200 milioni di euro di prodotti nautici, dal gommone allo yacht da 60 metri, nel 2014 erano 290 milioni di euro, quindi meno 94%, quindi praticamente un mercato che è sparito. Oggi non abbiamo ripreso le cifre e i volumi del 2008, ci vorrà molto tempo, ma l'inversione di tendenza c'è. Personalmente, come cantiere San Lorenzo, abbiamo venduto 9 barche oltre i 27 metri italiani. Questo è un segnale fortissimo, perché vuol dire fiducia nel futuro, vuol dire non avere più il timore di essere visti, non avere più il timore di dire agli amici ho comprato la barca nuova, e questo è un segnale importante, perché poi un po' di emulazione c'è, nel senso che se il mio amico nel porto ha cambiato la barca, forse è il momento che la devo cambiare anch'io, e quindi speriamo che l'inversione di tendenza sia duratura e sia di ulteriore crescita nei prossimi anni. Mercati tradizionali, mercati emergenti, tendenze che si diversificano e sulle quali i costruttori nautici orientano la propria offerta. È un momento di svolta rispetto al passato. Negli anni di crisi i mercati emergenti hanno salvato la nautica, i mercati maturi, Europa e America in particolare, sono andati a tappeto. Questo è un momento di totale inversione di tendenza. Abbiamo l'America che con un 3% di PIL, cambio forte, è ripartita. Abbiamo l'Europa che sta tornando. Chiaramente il ritorno dell'Europa è più lento, perché il PIL in Europa è all'1%, non è al 3%, ma è molto aiutato anche dal cambio col dollaro. Molti imprenditori europei stanno esportando nel resto del mondo grazie a un cambio più favorevole. Quindi c'è un ritorno dei mercati maturi, mentre gli mercati emergenti, vedi Cina, Russia, Brasile, stanno soffrendo molto per diverse ragioni. La Russia l'altro anno è sparita, la Cina, questo nuovo governo che ha molta attenzione all'anticorruzione, sta spaventando molto i cinesi. Gli emergenti si stanno fermando e stanno tornando i mercati maturi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche noi costruttori dobbiamo cambiare il prodotto. Nei mercati emergenti continua a esserci il concetto di show-off, di gigantismo, ci sono i giga-yacht, barche da 100 metri, mentre il mercato maturo è un mercato che dopo questa crisi in particolare è diventato più sobrio, meno gigantismo. Gli armatori, che sono anche figli di armatori perché ormai hanno 40-50 anni e sono diventati maturi come armatori loro stessi, vogliono un prodotto che sia più vicino al mare, dove poter giocare di più con i toys e con il mare. Quindi le barche devono cambiare. Anche la politica ha capito che la nautica e tutto quanto vi gira attorno non è affare per ricchi, non va più considerato come un territorio da saccheggiare e punire. Vedi, tassa di stazionamento, canoni demaniali. Il vento è cambiato, anche perché l'eloquenza di alcuni dati cristallizza una realtà capace di garantire ricadute occupazionali di rilievo. Ogni 3 barche e mezza circa matura un posto di lavoro e ad ogni posto di lavoro diretto se ne creano quasi 7,5 lungo la filiera. E così il mare non è più da svuotare, ma da riempire, grandi e piccole barche a partire dai gommoni. Piero Formenti è il titolare di Zar Formenti, l'azienda che lui stesso fondò alla fine degli anni 70. L'idea del gommone nacque sull'ultima onda lunga del boom economico. Nacque tanti anni fa, in particolare nel milanese, perché era la piccola barchetta smontabile per chi non aveva il mare sotto casa e poteva metterla nel bagagliaio e portarsela al mare o al lago. E poi c'è stata un'evoluzione grandissima e si è passati a dei gommoni smontabili più grandi, ma il vero boom è nato con l'adozione delle carene in vetroresina a cui venivano applicati i tubolari. Questo ha dato la possibilità alla cantieristica italiana di sviluppare progetti sempre più innovativi, sempre più particolari. Anche poi nel momento in cui si è cominciato a mettere della vetroresina anche in coperta, delle operazioni di design che a oggi stanno dettando il trend in tutto il mondo. Anche per le imbarcazioni più piccole la tempesta della crisi è imperversato con forza, ma ora i bollettini dicono che le nuvole si stanno dissolvendo. Per fortuna già il 2014 ha dato dei buoni segnali di ripresa, ancora abbastanza timidi, ma che si sono consolidati verso la fine della stagione 2014, e il 2015 ha veramente cominciato a portarci a un segno più, ma non a un segno più a una cifra, a un segno più a due cifre, a doppia cifra. Chiaramente la piccola barca, il gommone sono l'ultima cosa, sono la prima cosa che la famiglia lascia in garage o non cambia o non compra, e probabilmente è anche la prima cosa che torna a comprare quando finalmente comincia a vedere il sereno, e di sereno non parlo di meteorologia. Effettivamente è questo che si sta vedendo, le famiglie tornano ad avere voglia di mare, di godersi un po' la vita. Il mare e il vento, un'alchimia che ha costituito e costituisce l'essenza di un rapporto unico con la natura e i suoi elementi. Andare a vela è libertà e un po' sogno. Fabio Planamente, general manager del cantiere del Pardo. Sin da bambini, quando noi pensiamo comunque all'immaginario di solcare i mari, pensiamo a una barca a vela. Credo che sia difficile oggi trovare un settore che sia stato così penalizzato dal punto di vista soprattutto dei fatturati. C'è stata una selezione naturale, quindi oggi quelli che sono presenti sul mercato sono quelli che magari avevano più credenziali già all'epoca, hanno lavorato meglio, una storia alle spalle. Quindi le aziende si sono dovute obbligatoriamente ristrutturare, pensare a quello che i volumi potevano essere fatti all'esterno, e quindi magari in maniera dolorosa anche ridurre le strutture e le persone che ci lavoravano intorno. Noi italiani siamo sempre tra i più bravi a fare le barche a vela. Assolutamente sì, diciamo che gli italiani, il concetto del Made in Italy è anche calzante nel nostro settore. Abbiamo diversi cantieri in Italia che sono le eccellenze comunque nel mondo per quello che riguarda il livello di finiture, la qualità, il design e le performance. Lorenzo Argento, firma di punta dello studio Brenta Design, disegna, concepisce, immagina barche a vela. ci sono prodotti molto più concreti, si è abbandonato un po' questa cosa di dire la barca è una cosa esclusiva, piuttosto che no, c'è una maggiore, direi, concretezza. La nostra è un'industria molto artigianale sostanzialmente, quindi ci sono chiaramente i grandi produttori, ci sono chiaramente le grandi aziende, però di fatto c'è un tessuto di produttori molto, molto artigianali e molto bravi. Quale sarà la barca del futuro? La barca a vela in assoluto è il prodotto più green che uno possa immaginare, perché il fatto stesso che sia il vento a muoverla, questo dà un grande vantaggio. Poi chiaramente la tecnologia, la leggerezza dei materiali, la robustezza dei materiali aiuta moltissimo. E io come la immagino? La immagino una barca, cioè è il piacere della navigazione, cioè non è io vado dal punto A al punto B, ma è come ci arrivo, è come navigo. Questo deve essere il piacere della barca in assoluto. C'è una qualità del committente, c'è una qualità di chi va per mare. Sono tornati i personaggi che una volta magari si erano un po' di fronte a tutte le esuberanze di barche, di dimensioni, eccetera, eccetera, erano un po' intimiditi, adesso si ripresentano e dicono: ma io sono un sincero appassionato di barche, quindi ci sto a questo, in queste proporzioni, in questi numeri mi piace giocare. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.